Certo, amici, che ascoltare l'insegnamento di Gesù, ti accorgi che lui non aveva peli sulla lingua. E spesse volte con le persone che gli stavano più vicine. Che cosa ci racconta Matteo in questo capitolo ventunesimo? Ci racconta che Gesù inventa una parabola per sottolineare come spesso le persone che aveva più vicino a lui non lo ascoltavano e aveva maggior ascolto, spesso, da persone lontane, da persone piene di peccati che erano cordialmente disprezzati dai suoi vicini. E guardate che il Vangelo riporta diversi casi di questi, eh? Ricorderete Zaccheo? Zaccheo si sente dire da Gesù: vieni, vieni, voglio essere tuo ospite. E i vicini, io quando predico queste cose dico, quelli del consiglio pastorale, gli dicono: come? Va a alloggiare da un peccatore, va a mangiare a casa sua? E noi che gli siamo vicini. Il problema è che questo si ripete. Si ripete nella parabola del figlio prodigo. Quello bravo che non va via di casa ci fa una figura ben meschina. E quello che era un birichino che se ne va di casa spendendo e spandendo, torna a casa pentito e si sottomette a suo padre. Ma ce ne sono, sapete, di episodi così nel Vangelo, per arrivare appunto a quello di oggi in cui un figlio fa il birichino e dice: no, non c'ho voglia di andare a lavorare nel tuo campo, dice a suo padre, e poi invece ci va perché si pente, e l'altro figlio che dice: sì papà, certo, come no, e poi non ci va. E Gesù tira la conclusione: voi che mi siete vicini non mi ascoltate. Le prostitute e i ladri, i pubblicani, si convertono. Cosa dite, amici, se io vi dico che questo capita ancora oggi? Certo, non si può fare di ogni erba un fascio, ma io ormai ho quasi 50 anni che sono prete, nelle parrocchie in cui sono passato io ho visto regolarmente avvenire queste cose. Io non parlo per voi perché non vi conosco bene, non so neanche il vostro parroco, e sono qui così da poco tempo, ma nelle altre parrocchie io ho sempre detto, i miei collaboratori più vicini, quelli che io devo ringraziare perché mi danno una mano, sono sempre pronti alle necessità della parrocchia, da un punto di vista di tempo, di lavoro e certe volte anche economico, tante volte non mi seguono spiritualmente. E mi sembra che sia la stessa cosa di questo Vangelo. E vi voglio portare un caso, valutate voi se serve a voi o se non vi serve, io do l'insegnamento generale. Quanta poca gente va a confessarsi dal proprio parroco? Perché? Eppure, se tu vuoi costruire una comunità, non basta che fai la festa patronale, non basta che metti giù un banchetto, non basta che trasporti in processione quello che c'è da portare, non basta. Devi condividere col tuo prete la fede, non i gesti. Appena. Perché non ti confessi dal tuo parroco? Hai vergogna dei tuoi peccati? Ma tanto siamo fatti tutti di pasta frolla, lo sappiamo, no? Io vi voglio portare un esempio meraviglioso che mi è capitato nella vita. Ho fatto l'insegnante di religione per 20 anni a scuola, nelle medie, e un giorno mi si avvicina un insegnante, una bella persona, giovane ancora, lanciata nell'insegnamento, tra l'altro poi ha fatto anche carriera, e mi dice: Don Ambrogio, voglio confessarmi da te. Ah sì? Vieni in parrocchia? No, no, qui a scuola. Abbiamo scelto l'aula di scienze che era vuota, siamo andati lì e questa persona mi dice: ho fatto un aborto, ho voluto venire a confessarmi da te perché so che tu hai della stima per me e io volevo farmi conoscere del tutto. E le ho detto: ma sei una donna straordinariamente in gamba. Siamo a Milano, potevi andarti a confessare in Duomo, nessuno ti conosceva. Tu vieni a confessarti dal sacerdote che insegna nella tua scuola, dicendo che siccome lui ha un po' di stima per te, tu volevi farti conoscere con umiltà per quello che sei. Amici, su queste basi si costruisce una comunità. Altrimenti si fanno le organizzazioni, altrimenti siamo a questi Vangeli in cui i vicini schivano, i lontani sono quelli che tante volte aprono un cammino di fede col loro prete straordinario, almeno stando al Vangelo è così. Gli esempi che vi ho portato, ma ce ne sono altri. Gesù aveva vicino i farisei, aveva vicino Erode, ma non sono loro che scoprono la nascita di Gesù, sono i magi che vengono da lontano. Proviamo a vedere, amici, se non è così. Per il momento io dico che è così. Io sono nella chiesetta lì della Bettola tutti i sabati pomeriggio a disposizione per le confessioni. Non viene nessuno. Se ne vengono tre o quattro, vengono dai paesi vicini, perché anche loro fanno lo stesso discorso. O io temo che i miei parrocchiani non solo vanno altrove, ma magari stanno mesi, mesi, mesi senza confessarsi. Amici, per fare una comunità cristiana in cui Gesù vive, in cui l'Eucaristia deve essere ricevuta in ogni santa messa da ciascuno, forse bisogna fare un altro cammino.